Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Si chiama Ciolla, vive nel Nevada, ha 23 anni e dipinge. Fin qui niente di strano, se non fosse che si tratta di un cavallo. Anni fa visitai Desmond Morris a Malta, dove teneva una collezione di dipinti fatti da scimpanzé. Arte o non arte, quei quadri erano affascinanti. In essi, soprattutto, si leggeva alla mano lo stile di quegli autori non umani. Fu Morris, nel suo Biologia dell'arte, a teorizzare che la pittura, più che a rappresentare il bello, anticamente rispondesse all'esigenza di esprimere contenuti descrittivi. Non c'era, allora, la fotografia. Soltanto col suo avvento, infatti, si affermò l'arte astratta. Si magnificò così quel condensato ludico esploratorio, già intuibile osservando il comportamento di quei pittori molto, ma molto preraffaelliti, che sono gli scimpanzé. Curiosità e gioco, intesi, e ciò è importante, come attività autoremuneranti. Nobile specifico, sicuramente, d'ogni espressione artistica. Siccome poi nelle scimmie l'esplorazione ludica è esclusiva dell'infanzia, mentre nella nostra specie la si ritrova anche allo stato adulto, ciò era letto in senso evolutivo come segno di una nostra avvenuta infantilizzazione, o, se volete, neotenia. La ricerca delle antiche origini dei comportamenti umani si confà con una scienza comparativa come è l'etologia. E che c'è di scandaloso nel condividere con certi nostri parenti il piacere di una ludica esplorazione? Tanto più che per loro tutto è rimasto sul piano di un'infantile ingenuità, mentre noi abbiamo sviluppato una cultura artistica diversificata per manifestazioni, stili e significati. D'altronde, ognuno ha i suoi predecessori, e se siamo come siamo, non è che questi non c'entrino niente. A volte c'entrano. Fin qui, a ogni modo, si tratta davvero di parenti, e anche stretti, con quel più del 90% di DNA in comune. Recentemente, però, il panorama dei pittori non umani si è allargato ad altri casi e i più curiosi chiamano in causa niente meno che un cavallo e un'intera scuola di elefanti. Confesso che, sentendo ancora parlare di animali pittori, pensando a loro, mi sono chiesto: possibile che per dimostrarne l'intelligenza gli animali dobbiamo per forza convincerli a fare qualcosa di umano? Come se, essendo solo se stessi, non sappiano dimostrare quanto sottile possa essere la loro mente. Poi, come vedete, ho cambiato un po' idea. Ma parliamo dei fatti innanzitutto. Il cavallo si chiama Ciolla, vive in Nevada ed è lo splendido figlio, 23enne, di un Mustang e di una Quarter Horse. Quanto al dipingere, lo fa tenendo in bocca un pennello e tracciando segni su un foglio. Pare che le sue opere siano indistinguibili da certa pittura astratta umana, tant'è che, tenendo incognita la specie, Ciolla ha ottenuto premi e riconoscimenti. Così ho voluto, per curiosità, approfondire. Ciolla lo ha ammirato, in sequenze fotografiche e filmati, galoppare libero in un prato. Poi l'ho visto dipingere, avvicinandosi spontaneo al cavalletto. Prendeva in bocca il pennello e tracciava i suoi segni. E, soprattutto, mi ha impressionato una sequenza in cui il cavallo, che aveva stretto malamente il pennello tra le labbra, tutto di sghembo, si è immediatamente messo a rigirarselo in bocca e, agendo di lingua, labbra e denti, infine l'ha ben posizionato. A questo punto, soddisfatto, ha dato inizio alla sua opera pittorica. Questo comportamento, secondo me, non è cosa da poco, perché sembra indicare consapevolezza e intenzionalità. A sentire la sua proprietaria, Reni Chambers, Ciolla avrebbe iniziato a fare quel che fa per gioco, assecondando un curioso tentativo della sua padrona e traendone poi, chissà, un qualche tipo di remunerazione. Come le scimmie, allora? Ciò che è noto è che talora i cavalli hanno a disposizione una palla con un manico attaccato a una parete del box e che con questa giocano prendendola in bocca e dimostrando una certa abilità, se così si può dire, manipolativa. Senza contare che potrebbero anche esserci, al di là dell'autorimunerazione, altri premi, quali uno zuccherino, una carota, perfino una lode o una carezza. perché anche queste sicuramente contano. C'è però, come possibile obiezione, il fatto che Ciolla non è più un puledro e il gioco, invece, negli animali dovrebbe essere un fatto giovanile, ma esistono eccezioni. Altre neotenie? I cani, ben lo sappiamo, giocano anche da adulti, allora perché non i cavalli? Detto di Ciolla, veniamo agli elefanti pittori. Anche questi li ho visti in azione in più filmati. E meno male che li ho visti, perché altrimenti forse non avrei il coraggio ora di scriverne. Stavano in gruppo e in un giardino thailandese erano intenti a dipingere. Tranquilli e seri come scolaretti. Piazzati di fronte a cavalletti, tenevano il pennello con la proboscide e lo facevano con qualcosa di simile a un'umana presa di precisione. Già, perché questi animali pittori, oltre a una mente fina, possiedono questo quinto arto multiuso. Ed è questa accoppiata che consente loro di divenire gli unici pittori figurativi non umani che, infatti, con pochi tratti, sanno raffigurare più che decentemente addirittura se stessi, o almeno altri elefanti. L'impressione che ne ho tratto è che, a ogni modo, il loro è un lavoro ripetitivo, artigianale, un po' noioso, forse, senza, cioè, quel tocco di creatività e di ludico che si intuisce negli scimpanzé di Morris e, volendo, anche in Ciolla. Nell'elefantesca bottega pare che l'artista, o l'artigiana migliore, sia una femmina di nome Hong. Sarebbe lei la caposcuola e, come ho già scritto, guardando lavorare gli elefanti s'aveva la conturbante sensazione d'essere entrati in un'antica bottega, di quelle che conosciamo per averle studiate nella storia dell'arte. Solo che, in quel giardino da favola, gli apprendisti erano immensi, grigi, ma soprattutto avevano la proboscide. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Danilo Mainardi, Animali pittori, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Anche in occasione del terremoto in Abruzzo, come era avvenuto per tutte le altre calamità, è partito dal nord un esercito di volontari, simbolo di un'Italia che, almeno nel dolore, è in grado di ritrovare la propria unità. A volte ritornano, ma solo quando l'Italia se la vede davvero brutta. Si accorsero di loro nel novembre del 66 e subito li etichettarono angeli del fango, con le mani in arno per salvare Firenze. Qui non c'è fango. La terra del Gran Sasso è dura come il cuore di questo terremoto. E loro mica ci tengono a finire nel bazar degli spot facili. Le mani dell'alpino Giancarlo, 40 anni, moglie, figli e pancetta, sono come devono essere le mani di un agente immobiliare, che poi è il suo lavoro, lisce e candide, senza calli. Eppure quelle mani, qualche ora fa, hanno estratto nella nebbia di polvere di una palazzina che non c'è più, 3 cadaveri. E ora ha gli occhi rossi. Colpa della polvere, dice. Naturalmente. Giovanna è sposata da 30 anni con l'Unitalsi di Modena, che si occupa del trasporto di malati e pellegrini nei santuari di mezzo mondo. Ed è solo un anno e mezzo che è sposata con Guglielmo, 59 anni. Alle nostre nozze, racconta, erano più gli amici disabili conosciuti in tanti anni di volontariato che i nostri parenti. Ed è stato il regalo più bello. Mario ha 68 anni, con la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si è fatto il fango di Sarno, i terremoti di Assisi e San Giuliano, l'alluvione in Piemonte e, appena messo piede nella tendopoli di Piazza d'Armi, ha capito come girava. Ragazzi, diamo tutto nei prossimi 4 o 5 giorni perché più di tanto non potremo resistere. Qui non c'è da lavarsi e l'unico posto letto per noi è l'auto. Sono tornati e l'Italia, in perenne deficit di autostima, ringrazia sentitamente. Sono 2000 a presidiare questo simulacro di città, o forse più, tanto, come dice il vecchio Giuseppe Zamberletti, padre e fondatore della moderna protezione civile, non sono i numeri che contano, ma la qualità e il saper fare squadra. Molti altri bussano, sono in lista d'attesa. A Bergamo il prefetto ha dovuto addirittura bloccare la partenza di alcune centinaia di volontari, invitandoli a evitare iniziative isolate. I soccorsi, ha intimato, devono essere coordinati e richiesti. Evitiamo le improvvisazioni. Altrimenti si corre il rischio, avvertono dall'Aquila gli uomini di Guido Bertolaso, di fare tappo, intasando la macchina. Non sarà semplice. Arrivano a ondate i volontari. Un crogiuolo di età, dialetti, professioni e sensibilità. È un'Italia senza guelfi e ghibellini, che non esiste nei libri di storia, men che meno nei talk show. Perché lo faccio? Perché c'è gente che ha bisogno, perché mi sento meglio anch'io, dice, emergendo da un casco ammaccato da mille battaglie, l'abruzzese Alessio, 26 anni, tecnico informatico, arruolato da 20 anni sotto le bandiere di Nuova Acropoli, alla quale dedica ferie e weekend. Perché lo faccio? Perché conosco l'Aquila ed è nel mio cuore, sussurra la spagnola Hélène, 29 anni, che viene da Cadice, fa parte della GEA ed è riuscita a portarsi in aereo, volo naturalmente economy, barelle, gruppi, fari e strumenti per la ricerca di persone disperse. Nord e centro sono scattati come 100 metristi. La maggioranza dei volontari viene da lì. Il presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, ha voluto far sapere che la prima colonna di mezzi, un centinaio di uomini più attrezzature, è in arrivo. Ed è suonata come una risposta a chi, a nord del Po, tende a incardinare anche questa gara di solidarietà nel solito schema delle due Italie. Per fortuna Jean-Claude non sa nulla di queste miserie. È un infermiere di 43 anni, viene da un posto vicino a Chamois e fa parte dell'associazione non governativa GIS-74. «Italiani, bravissima gente, quando sono in ginocchio!» Scherza, ma non troppo. «È tutta la notte che scaviamo. Ero stato in Val d'Aosta nel 2000 per una frana, ma qui è veramente un inferno. Vengono tirati dal Friuli i fili della protezione civile a livello regionale, da Trieste, da dove sono già stati inviati 108 mezzi e 397 volontari. L'assessore e coordinatore nazionale Vanni Lenna si dice disposto a mettere in atto il modello Friuli, che non è una smargiassata, ma il frutto di un'esperienza maturata dopo il devastante terremoto del 6 maggio 1976, quasi 1000 morti e 45.000 senza tetto, e una ricostruzione che lasciò a bocca aperta mezzo mondo. Alfredo, Sergio, Mauro e Mario, friulani doc, ne hanno viste di ogni genere. Ora montano tende blu in quella che era la pista d'atletica dell'Aquila. Attorno a loro si muovono divise di tanti colori. È il resto dell'esercito dei soccorritori. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, soldati, guardie forestali. E poi il rosso dei vigili del fuoco che rimbalzano da un angolo all'altro della città come biglia da flipper. Altri 5.000 uomini, per un totale, compresi i volontari, di 7.000 unità. Nessuno sa se basteranno. Anche perché il vero problema, stanotte come decine di altre notti, è l'insistere del terremoto, che tira giù anche quel poco rimesso in piedi. Le aquile di Spoleto hanno la faccia stravolta dalla fatica. Andrea, bancario di 37 anni, è appena emerso da una voragine di mattoni e ferri. «Era una palazzina, abbiamo trovato 4 morti, ma una ragazza si è salvata. Ci siamo dovuti calare con le corde, per fortuna tra di noi ci sono rocciatori e speleologi. E 2 cani». Full e Buck, più sfiniti dei padroni. Nel campo di Piazza d'Armi si accendono i fari, le tende sono pronte. Elisa, 21 anni, milanese, cerca di spiegare a una signora col bimbo che no, i biscotti Plasmon proprio non li abbiamo. E Mario, 68 anni, ricorda quella volta in Piemonte quando ritrovammo in fondo al fiume il portafoglio di un signore e lui ci ringraziò con un tartufo a testa. Lo conserva ancora. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Alberti «Dai friulani alla spagnola Helen, i 2000 angeli nella città di Polvere», dal Corriere della Sera dell'8 aprile.